della pioggia è tutto lava, cancella le mie stesse ossa. Cade la pioggia e tutto casca, e scivolo sull'acqua sporca. Sì, ma te che importa poi? Rinfrescati se vuoi, questa mia stessa pioggia sporca. Dimmi a che serve restare lontano in silenzio a guardare la nostra passione che muore in un angolo e non sa di noi, non sa di noi. Sento anch'io la pace, cade la pioggia e questa pace è solo acqua sporca e brace, c'è aria fredda intorno a noi, abbracciami se vuoi, questa mia stessa pioggia sporca. Che serve restare lontano in silenzio a guardare la nostra passione che muore in un angolo, e dimmi a che serve sperare. So difendere questa mia brutta pelle, così sporca, tanto sporca come sporca questa pioggia sporca. Sì, ma tu non difendermi adesso, tu non difendermi adesso, tu non difendermi, piuttosto torna a fare. Sì, ma torna e dimmi che serve restare lontano in silenzio a guardare la nostra passione. Non muore ma cambia colore. Bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi, la strada che noi abbiamo fatto insieme, gettando sulla terra il nostro seme. A ucciderci ogni notte, detto con rabbia, via. Gocce di pioggia calda sulla sabbia. Amore, amore mio, questa passione passata come fame ad un leone. Dopo che ha divorato la sua preda, abbandonato le ossa agli avvoltoi. Tu non ricordi, ma eravamo noi, quei due abbracciati fermi nella pioggia, mentre tutti correvano al riparo. E il nostro amore polvere da sparo, e il cuore è solo un battito di cuore, e il lampo illumina senza rumore. E la mia pelle è carta bianca per il tuo racconto, ma scrivi tu la fine, io sono pronto.